Non hai più niente da chiedere alla vita? Stai attendendo serenamente la tua ora? Sei ormai un peso per parenti e amici? Allora accelera la tua dipartita bevendo grandi quantità di vino tronco. Il vino conservato in recipienti di cartone e amianto, derivante da vigneti contaminati con uranio impoverito, concimati con escrementi di mucca pazza. Vino tronco è il vino che aggrava ogni patologia, ne accentua gli effetti in modo esponenziale. Vino tronco, l'ultimo vino della tua vita.